quello? E me, lui. Che sta a fare? Nulla. Mi faccio il qualcuno adesso, va. Bene, va la radio, o lui, devo abbassare, cosa vuol fare? No, va bene. E che te, già ha fatto l'altro? Che cosa gli ho fatto l'altro? Ah, chi, dottor Rattiga? Si può venire a giù mi ha comandato. Cazzo, non ci ho capito un cazzo. Oh. Ah, non l'hai compreso ancora, no? Ma tu mi avevi detto che l'avevi l'atta, ma hai detto non ce l'ho più. Compreso vai, va. E lui? Cappa, cappa, positivo, vai, vai, vai. Ah, la blu, adesso lo metto il microfono normale, lasciami. Luca, com'è? Va bene. Va bene, così, aspetta. Senza il processore com'è? È più chiara. Col processore rimane tipo rauca, capito? Quindi così va bene, posso alzare un po' il mic però così, vero? Eh sì, in questo modo sì. Ora un pulso troppo così, una volta prova. No, da parte mia stai già andando a strappare. Troppo rauca, capito? Non si capisce. Beh, forse ce l'avevo troppo vicino alla bocca. Ora. Guarda un po' così, 1, 2, 3. Se parli normale sì, lontano il microfono dalla bocca va benissimo. Questo è il palmarino, è sempre col circuitino e un microfono malattutino. Un microfono normale. Sì, va bene, a posto. Ora così è meglio però, vero? Eh sì. Guarda, abbasso un pochino così e va bene, va? Ehi, raga, va bene, che sono facendo Massimiliano. Comunque già sono qua se hai bisogno, Sì, va bene, ora io già sono attaccato alla radio. Io anche tu, va bene, così no, anche io già sono in chinci. Ora. Va bene, io ci vado, è importante. Oppala. Siamo qui, adesso sono alle prese con la pressione che ce l'ho alta. Beh, questa cura che mi ha dato la cardiologa non serve a un cavolo, non funziona. Ma gliel'hai detto, cosa ci tende di virus? Sto aspettando le ricette del dottore che me le manda via email, così ho le stampe e mia moglie va a prenderle. Mi ha aggiunto una medicina, vediamo un po' se funziona. Io l'ho avvertito perché, cazzo, per me è pericoloso avere la pressione alta. Poi mi fanno problemi anche per l'altra operazione che devo fare, mi rompono le scatole e hanno ragione. Si conferma, è chiaro, la pressione deve essere regolare e tutto a posto. Non è che deve essere né alta né bassa, deve essere regolare. Quindi vedi di mettere a posto la situazione. E l'ho telefonato poco fa, adesso verso 5:30 mi manda le ricette e così io le stampo e le do a mia moglie, vediamo un po'. Si conferma, non è entrato nessuno, l'ascoltore, no, io non c'ero, mi sono entrato adesso, vero? In ufficio, andiamo al cognato, sono uscito alle 4, devo uscire, 4, 3 e mezzo, mi sono entrato adesso, manco riposato. Uno che è abituato a riposarsi, diventa un po' girazzarda. Ecco, cosa... ma ascolta, adesso eravamo in zona gialla, adesso siamo in zona arancione. Che differenza c'è? Perché io adesso non me le ricordo le prescrizioni che ci sono per la zona arancione. No, per noi non c'è una prescrizione. È uguale per noi come la gialla. I commerciali, capito? Negozi, alcuni negozi chiusi, bar, ristoranti, solo asporto, queste cose così, capito? Noi possiamo uscire, in zona rossa non possiamo uscire, devi avere permesso. In zona gialla arancione puoi uscire, capito? Non ti puoi allontanare oltre, se mi ricordo, i chilometri. Comunque sì, c'è lo spostamento da comune a comune, si può fare. E poi vabbè, coprifuoco dalle 10 alle 6 del mattino, alle 5 del mattino. Cazzo, addirittura. Ma va. Io preso vetriglia, io stamattina sono uscito perché ho voluto fare un giretto, sono andato a trovare un po' di colleghi di mia figlia che c'è al bar. Sono tutti con l'asporto, cioè zingari, lì nella porta, dica un caffè, gli due esci, te lo dai, da Sinai Blastica, te ne devi andare, cioè, ma zingari, devi mangiare e bere il caffè per strada, zingari, capito? Non serve assolutamente a nulla. E già sono uscito io a ritirare la pensione. Cazzo, tutti di bancomat bloccati, vedi, nei diributi. Ma cosa, io la bisogno da lavoro, non dal bancomat. Se no mi toccherebbe all'ultimo, diciamo così. Ma te li vuoi immaginare? Tutti hanno cavato i daurini da fuori. Ho già visto che siamo diventati, boh, non lo so neanche io come definirci. Ecco. Gappa, è stato al brecco, ma i zingari. Zingari e boh, non ci avete inchia. Avanti Massimiliano. Gappa, ciao Claudio, ciao anche alla Savino. Spero un attimo. Non troppo alto. Ok, va bene. Ok. Grazie, andò bene, non è troppo alto. Va bene, alla grande. Avanti Natali per Massimiliano. Ciao Massimiliano, adesso chiamo da Filippo. Davvero? E chi è Filippo? Il cane di coso? Di Claudio? Ehi, a me mi si pulì a vacca, mi si è attaccato all'anca quando sono andato a trappare a Claudio la travolta. Raccontatela. Non è che me l'ha raccontata, ma io a Filippo non mi rimbala lecce, però. Piccola Riddu. No, l'altro giorno, l'unico che... lo aspetto nelle scale. Lo aspetto nelle scale, perché Massimiliano sale a piedi, adesso tanto non ci viene con questi casini. Però è l'unico che rubiglia. Se non rubo un minuto, quando stiamo qua in stanza, io devo chiudere la porta. E lui graffia la porta perché vuole entrare. Capito? Ci vuole giotto, ruba da beffa Massimiliano. Agli altri invece di morsica, capito Natalia? Perché a Massimiliano lo conosce, perché lo gioca, capito là? È logico che gli fa di così. E Rugani di Gianni, almeno veniva all'ascensore, mi dintava, quando uscivo dall'ascensore me ne veniva incavagnato. Ma dai! Noi sono scaldabato, non lo cario. E beh, grazie a Gianni Massimiliano. Il mio, solito. Ma vabbè. Il grande? Sì, il grande. Adesso lo metto che cosa, il microfono normale, 10 watt, si torna il modulato, buono, va bene, ce l'ho accesa già da una mezz'oretta, buona, viene al telefono con mio zio. Allora, ti devo mandare un messaggio a proposito di mio zio che mi ha chiesto una cosa che tu forse mi puoi aiutare, però te lo dico il messaggio. Ehi, se posso fare qualcosa volentieri Massimiliano. Ma adesso stai usando il 60? Sì, sto usando il 60, sì. Ah, va bene. Ehi, ma anche quello normale va bene. Io l'ho provato anche con quello normale e va benissimo. Certo devi staccare il processore, se no è troppo forte, però già va bene. Ma non risalzi bene a faccia le MC60 a Massimiliano. Risalzi bene a me. Io sì che lo faccio pompare. Ma che comparati noi, le vendendi. Te lo comparei, giusto e noci. Ma nuovo però, nuovo, tutta revisionata, la radio, perfetta, nuova. E cosa me ne faccio? A pelle non poterla usare. E roba da crepare. Si conferma, già lo so. Aspetta, mi guardo il messaggio, riprendi Massimiliano. Ehi, ok, guarda un po', Clark, che ho messo il microfono suo normale. Alla grande, porta appena appena quasi a due il Mickey Geek. Ok, senza processore così, Ora, 1, 2, 3, prova, guarda un po'. Va bene, va bene. Ottimo per la truppa. Natali, come lo senti? Beh, allora sai che lo sento meglio col microfono normale che con l'MC60, perché forse era troppo alzato di machine con l'MC60. Vuole a uno, non di più, anche se no andi bu bu bu fasi la radio. Guarda Natali, che invece ho provato a abbassare invece un pochino di più il Michigan e ho messo il processore. Abbassalo ancora un pelino mi è perfetto. Guarda Natali, l'ho abbassato un pelino come dici tu. La carità, avandave, mi, beh sai che Claudio ti dice la stessa cosa, perché vai a strappare se no. Io lo stesso lo tenevo a uno nel 440, ma io uscivo, va, fatti rudi da Claudio, che a me mi ne cappa la risa. No, no, esce bene Massimiliano, ottimo, poi col microfono si è a posto, va bene. È appena appena più bassa dell'MC60, ma la tonalità è quella Massimiliano. Ok, va. Adesso mi ho portato, il micchino l'ho portato tra lo 0 e l'1 a metà, e quello col processore inserito, capito? E non strappa, va meglio. Perché è così che si deve usare, se no vai a strappare subito con questo apparecchio. Anzi, non devi strillare neanche, perché se strilli è un macello. No, già lo strillo, io non ti preoccupare, Natali, e a voi. E poi già mi ricordo come uscivi tu, non c'è problema. Lo sto ancora piangendo quell'apparecchio, quello sì che era un signor. Da lì bisognava dargli. Ragione, vabbè, ma lì adesso come si è messo? Sempre uguale a prima o puoi trasmettere, com'è? Allora sai che non è venuto nessuno a Tucamelo Gampanidu. Mi sto fidando, se disturbo non trasmetto più, perché stavo sempre ascoltando e boh, non potevo avvisare, chi veniva a rompimi i cazzo di Giddu, mi veniva a portare gru portati, le proprio vanno a farmi avvisare. E vabbè, tu magari ogni tanto entra così, vedi un po', se ti gioca la Iana, se no bisogna quell'antenna sollevarla oltre il tetto e vedrai, non ti la gioca più nessuno la Iana. Caro Bas, io mi messi da burunernia, tra l'altro, sono stato operato alla colicista, adesso devo fare l'operazione per l'ernia. Mi ero buttato in macchina con un amico e mi ci dare l'ernia inguinale, dimmi tu. Adesso mi devo tornare a fare operare per l'ernia. Della giubilea da Bona, che stanno tre volte, sono entrato di pidare. E poi vabbè, anche i periodi sbagliati forse, capito? Gappa gappa, vai Claudia, Claudio si deve essere assentato, va bene, va, mi è arrivato il messaggio, forse mi stavo rispondendo, va. Ascolta il messaggio un attimo. Sì, Massimiliano, ti stavo rispondendo, ascoltalo, gappa gappa, già va bene, no, io Natali qua c'ho il 430 e il 140, il 440 l'avevo venduto, però sto parlando sempre con il Galaxy, oppure con i baracchini, così, tanto. Non cambia niente, alla fin fine oramai che tutti si sono abituati a sentire questa modulazione, modulerò col baracchino e quei due HF che sono rimasti, perché non c'ho più niente, li metto in vendita e ciccia. E io stavo cercando un ricevitore invece per, almeno per ascoltare le HF, a chi in lati rubi non vende nulla. Io voglio altro letto, Natale, cioè è inutile che ti bigli un 140, riboni lo dappino e non lo puoi idratare, oppure lo puoi anche usare facendo attenzione, due chiacchiere così, capito? E c'è un ricetrasmettitore, poi già sei grande, tu già sai come funziona, perché vai a comprare un ricevitore a 200 euro, 250 euro, un bel ricevitore HF, vai a un ricevitore, in quella maniera c'è il ricetrasmettitore, e l'usi come ricetrasmettitore, guru gabbo baro, capito, no guru bedi. Ma non mi fidano, con 4 watt disturbavo, adesso perché ho girato l'antenna, deve essere cambiata la situazione. perché ho messo quell'antenna multi, come si chiama, quell'antenna di banda che avevo in macchina, quella lunga, no? L'ho messa nella finestra e per addrizzarla al centro della strada ho dovuto girare il tubo dell'antenna. Evidentemente, come ha girato l'antenna, non disturba più, perché i radiali non puntano verso quell'antenna lì. Ah, ecco, può darsi pure minata lì, può darsi pure che sia così, che era proprio il piano di massa che andava a disturbare. Girandolo magari lo prende del riflesso e non disturbi. E guarda, non mi sembra vero, perché non potevo parlare, che tu dici sempre in ascolto. Infatti è per quello, se no il 140 già lo sai, me lo sarei preso, però erano robe da fare, inutili. Mi avrei preso un bel ricevitore se l'avessi trovato, ma lui dentro io non la ciappi, non la ciappi, a chi questa non vedi di nato. Sono rientrato, ma sta lì, tu lì ti dovevi mettere magari, lo sai che cosa, un'antenna senza radiali. Ma guarda, risolvevi molti problemi, eh. Già lo so. È che è troppo bassa, Ma vabbè, se non disturbo mi va bene anche così, guarda. E qua sei 9:10, a voglia va bene. Fate la bravi. Ma con l'omologato, mi ho registrato il break. Capito, con 4 watt sto uscendo, con l'omologato. Questo è un Superstar 3009 omologato. Non ha né canali e né potenza, 4 watt. A chi sia su Bogu Bogu dice il Budorra, lo so guiato. Ma la sono così che andava, e così non disturbi e puoi farti una chiacchierata, no? Avanti, Lubrofetta. Adesso orecchio fine, cazzo, mi ha sgamato. Buonasera, ciao Massimiliano, ciao Natalino. Ciao Gianni, ben entrato. C'è anche Claudio, vai per il Profetta. No, io non vorrei, siamo a parte, non mi ha salutato, ciao Natalino, ciao Massimiliano. Invece attendi la radio che sia in breccio, hai colta la prossima volta, hai capito bello bene? Io ho acceso adesso, ho sentito loro due, comunque buonasera. Ciao Gianni, ciao, buonasera, vabbè, si è acceso adesso, è perdonato, va bene, avanti Gabo e Bugnè. Sì, ma io volevo capire da Gianni, se lui era Lubrofetta o Lubrofetta. Corrado mi sì. Sì, che fai così dici la gatta mia è cucata, invece di la gatta, capito? La gatta. Chi non lo sa di? Vabbè già, vabbè, tutto a posto, adesso è un po' là, non ti sento. Dai. Si fa quello che è possibile, Massi, poi cosa ti posso dire? A parte che Bari Chernobyl è sotto casa, quindi poi il cielo grigio, vai tu, ma poi c'è buon umore, cazzo. Sì, vabbè, è importante ascoltarci, da. Non c'è problema, va. Ok, avanti Natale. Sto guardando la posta perché mi deve arrivare le ricette del medico. Fanguala lui, ancora non ha mandato. Non mi ha mandato. Ah, tu ti dici Natali, gli altri manda. Capo di Bugnè, cosa stai usando? Il Galaxy? Ehi, il Saturno, sì. Sto usando il Saturno con il solito microfono. Ma c'è bene. Sta scendo bene, però devo ritoccarlo. Oh, qualche ritocco ce la fa. Sì, qualche giorno che lo apri, mi chiami e ti dico cosa devi toccare, appena, ci vuole un po'. Sì, guarda di miro, lui ha bogo bogo. Ah, vabbè, già me l'hai detto, sì, non l'ho fatto Massimiliano. La verità si dica, non l'ho fatto niente. L'unica cosa che ho fatto è lo Smith e basta. Anche nelle tutte Santiago Setti. E boh, era completamente chiuso, non ho capito perché. Vabbè, anzi, hanno sbagliato. Hanno aperto un refegin, quando l'ho accesa c'era, schiacciava la portante e andava tutto nella zona rossa. Capito? Abbassavo il refegin, tutto a zero e rimaneva a Santiago 5. E quindi li ho corretti, dai. Il refegin l'ho messo giusto, e lo Smith l'ho messo giusto. Ok, da, ok, aspetta che devo portare una commissione giù a Daniela e poi risalgo, vai rubra te. Ciao, avrai buone rimanere, domani, crocro, inizia a smanettare, mi. Ehi, mamma ci mi piace, non so come toccare, è un brutto chitto, mi dice, è un brutto 30 chitto gascione, ma hanno canti un cantarano, ma è un baracchino brutto, è uguale. Oh, io, vabbè, lui di Pluto se ne intende. Eh sì, anche di papere. Cosa hai detto, Natalia? Se gli piace questo, l'apparecchio, però è con il microfono normale questo. Dice, va bene, non stai dicendo bene. A te disegnami, Rubrefe. Chi? Non ho capito, Cra. Natalia non sta parlando con te. Boh, mi sono distratto, dimmi Natali. A vedere come ti sembra questa qui con il microfono normale. Un bombò, Natali, un bombò. Va benissimo, va benissimo. Approvo al 100%. Caragara. Approvo il puntello. Il superstar già. Già una bella radio, dai. Ha una bella modulazione e anche a livello audio e mi piace, dai, mi piace. È una delle radio che preferisco a livello di suono, dai. Fa riferimento, cioè la mia chiave di riferimento è Marco Condorcast, cioè è spettacolare perché è allucinante, è proprio si avvicina molto alla voce naturale dell'individuo. Sembra una telefonata e mi piace proprio per quello. Oh, se si assomiglia alla voce dell'individuo, Marco è feo, è brutto di persona, non so se sta ascoltando, però è un bel brutto, si assomiglia a Rattapignara lui. Oh, che cattivo, ragazzi. Allora, non ho capito. Massimiliano, salito sì, guarda che l'ho già aperta, ho tirato su le VR14, quello è. No, Rubrefe, questo qui non è il Galaxy era quello di poco fa. No, io mi sembra di capire che c'è il 3009 tu, Natalia. Eia, c'ho il 3009, però questo non è il 3009, non è il Superstar. Il Superstar era quello che ho attaccato le MDQ4, ne avevo uno in scatola, nuovo, nuovo. Siccome Bombolino mi ha regalato lo spinotto, gli ho attaccato lo spinotto ed è attaccato al Superstar. Capito? Il Superstar era l'altro. Quello che non si può togliere il bip, infatti questo bip non ne ha, si può togliere da qui. Questo è il 5555, Anizzone 5555. Bene, no vabbè, tra una cosa e l'altra, rispondendo a Claudio non me ne sono accorto, Natali. Escono bene anche questi, 4 watt sempre, ed è andando via alla grande. Adesso metto il Superstar. Vai qua. E ci conferma, va bene, va bene. No, io ce l'ho il Superstar, dai, però è un Connex 3005. Capito che è come Superstar, però è modificato. Ecco. Ehi. Dubbrefea, ci sei? Lumi, aiuto. Ehi, guarda, rientrato. A me mi vanno sempre a fare i compiti, capito? Ehi, e comunque questo microfono, Massimiliano, è sempre una bomba, Il tuo, vero? Ehi, ehi, ma che lì, se ci metto un piccolo cacciavite dentro, esce meglio. Babà, l'alchimista, ragazzi. Perché anche quello lì è uguale al 3009 dentro, al Pluto, solo che quello lì è un monofinale, capito? Invece il Pluto è doppio finale, tipo il Galaxy, no? Capito? E sono tutti in linea i trimerini, da quelli per la modulazione, la radio, va, sono quelli da toccare. Invece questo è normale, non gli ho toccato niente a che era omologato, infatti non c'ha neanche i canali, non ha la potenza, nulla, 4 watt e buh, da come dici dalla fabbrica io non l'ho giudicato, ma chi va all'omologazione, un prisso. Ma perché lasciarlo così quello, Natale? Non lo tocchi, buh. Almeno per chiacchierare in città, così ti sentono tutti e sei tranquillo. C'ha una bella modulazione e nessuno ti può dire niente. E infatti, non lo tocco questo, no. È che è troppo grande, se no me lo sarei messo anche in macchina, ma è un bar ragione. Bene, mi è impezzato. E si sente che il 3009 è nata lì. Ehi, ma c'è bene anche uso un microfono normale, mi segui, metto il microfono normale e ti rubo sentendi. No, è meglio, cioè preferisco questo come suona l'altro, anche se non era male l'altro, dai, comunque, questione di gusti e di orecchie, dai. Bene, avanti Massimiliano. Ehi Massimiliano, dove ce l'ha chiamato la moglie? E tu sei convenente già, sta a posto. Insomma, sono uscito a fare una commissione poco fa e sono rientrato. Come si dice, quando si esce in mare, motori, come ti dici? Cazzarola, ma adesso non mi viene il termine. Motori al minimo. C'avevo il volume basso, cos'è il gasino che fai dopo, cos'è? Il gasino? Ehi, cos'è che siete gommiendo questi motori a manetta? Gianni, non ve l'ho fatta, bisogna dirlo, non ha giù motori, due motori vai. No, non ha giù motori, sono dentro la macchina, la pagava. Ascolta invece, Giacomo, mi ascolti col microfono normale questa radio, bene va? Sì, va bene Massimiliano, ma non è quella solita, vero? No, vabbè, è un'altra questa qua, va, però l'importante è riuscire bene, va? No, già ti ascolto bene, anche se preferisco e sono affezionato più all'altra, comunque va bene lo stesso, dai. Va bene, comunque. Ma quando ci vediamo portati il cacciavite e facciamo tutto. Dai, che Marco mi ha dato la dritta per alzare appena in VAT. E poi questa radio è tutta normale, dai. E il VAT è solo VR13, poi a fianco c'è il 16 e la radio quella. Sì, mi è passato anche lo schemino, Massimiliano. No, ma non ci voglio smanettare troppo, la lago così, sennò comincia oggi, comincia domani, e poi preferisco lasciarla così, dai. No, ma non smanetti tu, smanetto io, cosa tu? Cioè, rettifichi a domicilio, così è. Si conferma, kappa. Vai, lascia lì. Ehi, ui. Anch'io mettevo le mani addosso col cacciavite, mamma mia, però purtroppo finì di disovici i denti, non ha giocato. Oh, iaia, ora noi ci siamo bovari, cosa sarà? Vabbè. Ascolta, Clara, invece tu il VAT ce li hai a zero di quella radio? A zero, a manetta giù, 10 watt. Mi ho tirato su leggermente il Mickey King perché era a metà, così meglio va. Sì, va bene. Ascolta, fammi un passaggio, mettili a metà, tanto se ce li ha a manetta, mettili a metà a vedere, giusto il segnale se cambia molto. Allora, così sono al massimo i watt. Così sono a metà. Guarda se hai cambiato il segnale. Allora, ti spiego, con il VAT al massimo fai portante bianca, fai 15, modulati 20, ok? Con metà fai 9,5, sopra 20 arrivi poi. Figura di due. Secondo me è già tirata sta radio perché già spinge. Guarda che c'ho il Mickey Game, vabbè, l'ho messo al massimo adesso. Però il microfono ce l'ho a metà io, cosa che gli altri ce li ho tutti a 8, a 7, questo ce l'ho a manco a 5. Ascolta, giusto per tanto poi lo metti come vuoi. Abbassali adesso alle ore 9 a vedere, tra lo 0 e metà. Cosa? Il microfono? No, il VAT, il microfono ce l'ho così, è giusto per capire se cambia la modulazione. Allora, così li ho rimessi al massimo, e così sono ore 9, così sono ore 9. No, non fa sicla, così sono a mezzogiorno il VAT. Sì, scusi, a mezzogiorno. Così invece sono ore 9. No, non cambia nulla, da 9 a mezzogiorno non cambia niente. Portali tutti chiusi. No, così sono tutti chiusi. Però non chiude tutto. Guarda, lo strumento suo mi sta dando 1,5 watt, quasi 2 watt. Ma non sono giusti quegli strumenti qua. Poi si vede che tutto chiuso, la radio è brutta comunque. Allora, così tutto chiuso fai Santiago 8 a picchi di 15. La puoi lasciare anche, per me la puoi lasciare anche mezzogiorno, capito? Tanto fai da 9.05 a picchi di 20, quindi. E invece tutti al massimo fai 9.15, 9.20, come vuoi tu, è bella in tutte le maniere, però con i vatti tutti chiusi così non è bella la radio. Infatti l'aveva già provata anche Gianni, capito? No, si è tutta manetta così, già vabbè, tanto lineare non sto usando. Lineare sul 574, capito, diretto su quella radio lì. Posso anche attaccarlo qua, basta sganciare e agganciare, ma no, non mi interessa. Io andavo così, Massimiliano, ehi, fa niente che va, a voglia, ci sentiamo alla grande. Grazie. Avanti, Roberto. Ehi, Massimiliano, ho rimesso a posto l'antenna qualche giorno fa. Da te sono sempre uguali, giusto? No, ho aumentato un pelo, prima di 9 pieno, adesso sì, da 9 a 9.10. Ui, bella mossa, ragazzi. Allora questa riparazione ha dato qualche cc più, dai, sono contento. Ma sì, ma quindi la radio va bene così, è forte, è chiara, va bene? Sì, perfetto. Vabbè, se dà fastidio al bipi lo tolgo, Chi dà fastidio? Buh, a me no. Io vabbè, lo voglio, dai, così sembra più professionale, ho chiesto i bip. Avanti, Natalie, ma Natalie non c'è. E quando schiaccio però io in cuffia sento boom, boom, lo fa? Sì, le bombe sono quelle. Le bombe a mano? Vabbè, portate c'è bomba a piedi, o fa culo. Avanti, lo voglio fare. Sì, si sente il tocco del tasto del microfono. Ehi, sto cacchio di microfono. KK. Eppure quello nero che c'è tu ha lo stesso attacco di questo, me lo sai, che vuoi bugnare? No, lo sto seguendo, lo stesso attacco, quello nero. Sì, quello del Cobra ha lo stesso attacco di questo. Buono. Lo devo trovare perché questa radio con quel microfono è una saetta, una fucilata. E ce l'hai più tre? Sì, ma a diverso attacco. Su Giambi, su quella che lo cambi, le metti un più 5. Infatti così devo fare. C'ho l'attattore, infatti, quel solito attattore che ho fatto anche a te, che ci funziona, tutti i radio, ma già compreso. Vabbè. Però sai cosa bisogna fare, Massimiliano? Tu che c'è la mano più ferma ci vedi più di me. Mi devi limare quel connettore in modo che io lo posso girare da una parte all'altra. Devo eliminare quella bavattura. Già la eliminiamo, non c'è problema. Ci vuole una fresetta piccolina che già ce l'ho. Lo limiamo. Perché così quello lì gira su tutti i microfoni. Con quell'attattore io posso usare qualsiasi tipo di microfono, cazzo. Invece c'ha quella bavatura di merda e c'ha la posizione obbligata. E lo uso per il DAC, per questo, per il Pony. Gli altri sono tutti a posto, capito? Invece con quello lì posso usare qualsiasi tipo di microfono a 4. Io quando vieni a fare quel lavoro che abbiamo parlato, se te ne vieni qua a casa, lo porti giù e lo facciamo. Si conferma, grazie Massi. Hai visto, Robrofè? Molto ci vuole. Chiaramente devi pagarmi a Massimiliano, se ti dicevi a che cosa, Robrofè. Io pago sempre in natura, tu come ti stai a natura, beh? Le rettifiche si pagano. Poi Massimiliano, ma dove tirai? Bulldozer si chiama. Che fa campagna, capito? Il nome è una garanzia. Non ce l'hai motozappa o già? Certo che ce l'ho motozappa. Ti voglio mandare una foto di come arrivi qua. Lì c'è la Claudia, il contatto, Massimiliano. E perché io non ce l'ho il tuo numero? Boh, credo di sì. Cosa? Adesso me lo metto. Non mi ricordo. Gianni Lubrefetta ci ho scritto. E allora manda. Prendete un baracchino, aiuto. Mi è l'altro profetta. Tutti chiami profetta o prefetta? Buonasera a tutti. E come vuoi chiamare? Vabbè, ti chiamiamo Lubrefetta allora. Caffagaffa. E allora? Che si dice? Mi ha acceso adesso. Aspetta, mi sa se c'è gente presto ancora. No, io ho fatto dalle 3:30 sino alle 4:30, no, di più, alle 5 sono arrivato a casa. Ero in ufficio a fare alcune cosette, Sebat, qui manco riposato oggi, oh, ma sono entrato qua, lo stanno guardando un film alla TV e sono entrato qua a fare due chiacchiere, gappa gappa. Oh, c'ho la, ciao già, c'ho la fotocamera che mi dice errore fotocamera, aspetta, spengo il riaccendo, aspetta. Buonasera a tutti, dai. Ciao Massimo. Sì, ciao già. Ciao Gianni. Ciao, ciao, lo prefetto. Babà, nuovo. Sei battezzato così ormai. Gappa gappa. Già ho cambiato colore mia al sommergibile. Bello è venuto adesso, eh. Adesso sì. Adesso sto veramente bene in mezzo agli altri. Quel verde mediterraneo mi piace. Ho fatto un grigio scuro martellato, ma è la fine del mondo, proprio degli anni 70. Gappa gappa. Mandamelo a vedere. Ti dirò se è di mio gradimento. Io l'avrei fatto più blu notte. No, ma si vede. L'ho fatto questo grigio scuro, è un po' più scuro del grigio Kenwood, ma è un grigio bello, molto bello. Mi apprento, grazie, mamma, perché non si può smontare, capito? Un apprento, tutte le alettine, tutte le parti piccole, tutte a pennellino sono state fatte. Un apprento, guarda. Comunque è venuto meglio di prima. Molto bello, dai, adesso mi piace ancora di più. No, questo verde in mezzo al nero, al grigio, no, non mi piace dire. Adesso va bene, anche perché c'è il frontalino nero, quindi stacca bene, capito? Io tutto nero l'avevo fatto. Ma mi stava dicendo Roberto che il nero, quando lo fai nero così, non si usava il nero opaco, devi trovare un nero martellato, un nero un po' particolare. Invece i grigi ci sono, e questo è un grigio con delle puntine, capito? Un bel grigio, poi molto scuro, quindi un grigio vecchio, tipo cosa devo dire, quello che danno ai cancelli in ferro, che sembra tipo antirruggine, una cosa del genere. Grigio al topo. Fare un grigio al topo, grigio cielo, non lo so. Cosa dici tu, bravo prefetto? Perché non hai fatto mimetica, crack? Cazzo, l'ho provato, abbiamo cercato ma non la fanno la tinta così, capito? Infatti ero a fare un avvicinamento, veraggio un pantalone mimetico, ribunio ghiscio. Oh via. Vabbè, poi ci sono tutte le varie varianti militari, c'è color sabbia, color... il verdone con tutte le varie tonalità, quell'azzurro avio, ci sono diversi colori che si possono mettere, dai, comunque c'è l'imbarazzo della scelta. Io l'avrei fatto con la bandiera italiana, bianco, verde e rosso. Guarda l'ubrezza che ti ho dato la foto. Ehi, aspetta, mi devo allontanare un attimo, Cos'è? No, ho detto a Claudio, ho detto mandami la foto. Ehi, fammela, va, te la sto mandando. Aspetta, la mando Massimiliano. Anche a Gianni il profeta non ha mandato più niente, io te la mando pure a te. Aspetta, forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, chi è? Io, ora di lui. Tutto. Cosa di lui, Lu? Si può dire, no, che cosa rettifiche. Ciao Lu, allora, Massimiliano te l'ho mandata, aspetta che la mandiamo a cosa? A Gianni, per vedere se mi piace il colore, e poi a Gianni Rubrefetta. Ascolta, quella roba nera che c'ha a fianco a quello grigio cos'è? Quella roba nera? Cos'è questa roba nera? È l'altro radio, quello è l'Intec 3104, è sopra il patch, è sopra il 2003. Claudio, Pedisella! Luca Cimbra! Claudio Schumacher! Carlo Lugariello! Ciao Massimiliano, sono qua che mi sto morbidendo la barba con il bassimo, dai, sennò è tutta che la palla, è un casino. Perché ancora la vai, ma vai? E allora! Siamo caleduto, gatto più carino, a tipo scegliere le volte su come rende. No, ma si mi mette di biduccia a me. Vabbè, dai, c'è Luca, Gianni, Rubrefetta e Claudio, no? Ok, e io. Non so se c'è ancora qualcuno altro. Ma sconcia giochi, Oh, ma c'è un freddo, lo smite si inciota. Con umidità qua. C'è, è un bel lento, E il tuo martello? Non lo do, così rimane così. La volta l'ho smontato, l'avevo sistemato, ma si sono chiusato, le abili e luci. Beh già, vi piace il colore o no? Così è la verità, secondo me è la più bella verde. Vaga, sto gatto verde è bicello. Perché adesso deve fare tutto il resto, me già lo sai. Come tutto il resto? Lo zainetto, tutte cose. Ehi, io c'ho bongo la vernice, mi ha avanzato un bel... Capito? Metto la vernice dentro il coso, porto la batteria, me la faccio spruzzare. La piccola posso spruzzare, non è un problema. Anche la batteria, la cassa della batteria devo fare lo stesso colore. Ehi, ma piano piano, adesso mi interessava la radio. No, è venuta bella. Mi piace molto di più. Quel verde no, non mi piaceva. Questo è un bel grigio. Bene, va già. E così, e io l'avrei preferita nera. E io ormai c'ho anche altre radio grigie, capito? Quindi questo è un bel grigio, ma se lo vedi dal vivo così non si vede, anche perché il mio telefono è... Però è un bel grigio. È un grigio proprio scuro, molto scuro, è un grigio tipo martellato, mi capito? Va bene, già va bene, e già mi è cura, tutta fatta la radio, l'importante sia pulita, ordinata, non aggraffi. Già va bene, no, verde non mi piaceva. Avanti, Rubraffè. Ehi, ho ricevuto la foto, sia quella di Massimiliano che quella di Claudio. Claudio, la foto è leggermente mossa, comunque vabbè, la sto guardando adesso, non l'ho mai vista. È particolare, ci stava bene questa sul mio Kawasaki mitico, Funziona, ce la senti, funziona anche bene. Vabbè. Ma non te ne ho mandato foto di come mi sono organizzato con la sala radio a te? No, negativo, Cla, negativo. C'è questa radio da combattimento e poi basta. E niente. Poi vabbè, Massimiliano, ho visto la foto del segnale. Già va bene, dai. A chi se ne vende? Ah no, va bene, va bene. A voglia. Per non dirsi una bugia, capito, Hai visto quel trattino, quello è il 15 del rosso, se leggermente di meno, 15 9 10. Bene, sai, dai, va benissimo. E io torno in Baria, io lo sai, cambio, passo e chiudo. Avanti Lu, flipper. Ma te le mando, Rubraffè, perché sono due postazioni, questa è dove c'ho i baracchini e poi l'altra dove c'ho gli HF, capito? Adesso te la mando. Ehi, ehi, Flipper è sparito, vai Gianni. Ehi, stavo cambiando il radio adesso. Così le faccio girare un po' tutte quante, dai. Questa come va? Ah, vanno tutte bene, anche io, fra un po' le faccio girare tutte. Prendo il mobile e giro sotto terra. A cambio in Jos. Ehi, ehi, ehi. Qualche giorno attacco il serpente. Adesso, tra domani e dopodomani, mi arriva il 3009. Ma il 3009 cosa l'hai mandato a modificare? No, era già modificato. L'ho mandato a lineare, perché in poche parole si spostava il frequenzimetro e non si capiva più in che canale eri, capito? E quindi l'ho mandato, l'ho fatto sistemare e adesso è perfetto. Cioè camminava da solo? No, non è che camminava da solo, quando tu toccavi il commutatore dei canali che andava a girare i canali, il frequenzimetro si andava via, tutto valeva in giù, capito? Già, adesso appena mi arriva la provo, capito, quella era già, è già con scheda dentro, tutto là. Gappa, avanti, Rubraffè. Ehi, Gianni, guarda che c'hai un piccolo falso contatto, ti sei abbassato appena la radio, non so se è il PPT o qualcos'altro. Questo qua è... quadrato, non è come gli altri PTT che sono allungati, questo qui ha il tasto quadrato e quando lo spingi ti entra nel dito e quindi a volte lo spingo meno, lo faccio naturalmente a spingerlo meno perché fa male il dito. Gianni Gagavella. Gava, ciao Lucretti. Ciao Luca. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao. E beh, com'è? Io vabbè, toccato poco poco l'antenna, perché mi stava toccando al filo, il radiale stava toccando al filo da accendere. Non so se infatti mi saranno salite le stazionarie, perché lo Smith sale di meno. Qua c'è Radio 5, Santiago 5 a picchi di 6. Qui sei Santiago 7 a picchi di 8. Però qua ti ho sentito in altre occasioni ed eri no, quasi no. Allora come l'ho spostata, vabbè. Stavo toccando lo stendito io, il filo là. Già da te come sono, Gianni? Vabbè, uno di due, dai. A me stai dicendo, prova. 1, 2, 3, 30, 40, 50. Sì, sei quasi 9.30. E da te lo bluffè, guarda un po'. 9.10 abbondante. Già sai che questa radio ce l'ho smetti tirchio, quindi aggiungerci un altro pochettino. Tu sei sul più, dai, le più 30. Claudio, da te? Sei sceso da 9.5 a 9. Vabbè, vuol dire c'ho stazionale, non me la faccio così e se la vedi come te possiamo. Oh, lo prezzo, già mettiamo il cacciavite anche lì, ci serve anche quello. Dagli la purga, lui. Bello, profe, le avvisi le foto, bella, va bene. Ehi, aspetta che non ho il telefono qua vicino. Oh, Claudio, una domenica ti fa un salto, se vuoi, ci facciamo l'aperitivo e vediamo la controllatina, una domenica. Via, quando vuoi. La rimettiamo com'era, non c'è problema. Perché bisogna essere in due, Claudio. O rimani fuori tu o sono uguali, rimango fuori io e tu controlli lo Smith del rosmetro patametro. Io mi voglio risare tu, buongiorno. Allora, K, va bene, d'accordo. Dai, vado a dare una sciacquata, torno subito. Ehi, avanti Massimiliano. Ehi, ma c'era anche Luca Flippa, dove ci è uscito? Luca? Stava a fendere un microfono. Ehi, arriva anche il microfono. È entrato poco fa, è sparito di nuovo. Va bene, va. Gappra, positivo, dai. Gianni, come mi ascolti? Bene? Ottimamente. Luca sta facendo l'impianto di amplificazione per microfoni normali, mi fa uscire come gli amplificati. Va bene allora, va bene. Allora glielo diamo un po' da fare, va. No, ma è esterna, capito, si sta divertendo, esce bene, mi sembra un amplificato. Quella si può mettere dentro qualche scatolettina e fuori farle, come si chiama, dove attaccare lo spinotto. Quello che gli ho detto io, la stessa cosa gli ho detto io. E la sto facendo così per giocare, c'è che è stato un po' difficile la prima, ma poi si è capito. Già Massimiliano, una scatoletta di quelle piccoline, tipo un pacchetto di sigarette, una cosa così, gli metti un connettore universale a 4, capito, se la chiudi dentro e via, batteria, esci che andiamo. E allora, vanno bene anche quelle scatole qua, tipo quelle fagne che si mettono con le prese di fuori, quelle scatole, mi hai capito, quelle per l'elettrico. Poi lui che è bravo facendo cubitatura, fa il vaselluto, attacca e via. E una di quelle piccoline scatole di plastica, certo, che la lavori bene, la plastica, si butta lì, fa, sagoma, capito? La butti dentro, esce una cannonata, K. È vero, profe? Ehi, ho visto le foto. Sembra la sala trasmissione di Houston. Allora, hai visto, ma è proprio un microfono. Tutti sull'attenti, yes. Se vede un caporale alla fine, ha visto, è lo sommergibile, è che c'è militare. Poi ho visto che c'è anche la, come si chiama, dove c'è il DAC davanti. La fare per il CW. Eccolo. Ehi, al tasto, sì. Sempre c'è quello. Avanti Becco, buonasera, cambio. Ti ho telefonato e non hai risposto. Avanti la bilingoma e devo chiamare fra. Sì, ho visto la chiamata, ma ero fuori, ero nell'officina che stavo fabbricando antenne. Una infatti l'ho recuperata, che dentro non voleva vista, è entrata acqua. L'altra ci dovevo mettere le mani perché è staccato un condensatore microscopico e quindi le solite cagate che fabbricano anche se te la diamo. E poi stavo inseguendo gatti che stavano rompendo le palle, quindi sono tutto bagnato anche, accidenti. Poi si mette a piovere, quindi la cosa tira per le lunghe, hai capito qua? un macello, quindi non ho sentito il telefono che era a 20 metri di distanza. E così, comunque tutto bene, l'antenna non c'è più bisogno, l'ho recuperata e ne ho fabbricato altre due. Io l'ho messa in macchina perché ero in ufficio e dice chiama Gianfranco se ti raggiungevo, comunque in macchina se ti serve lo lasciate in macchina, così la prima occasione te la do, tanto a me non serve Gianfranco, io già lo sai, non c'ho più niente in macchina, non metto niente, quindi era quel periodo che mi serviva quando viaggiavo per mettere, c'avevo le VU in macchina. Dai, va bene, faccio girare, buonasera Gianfranco, avanti Gianni lo più lungo. Dai, ciao Gianfranco, ben sentito, cordialità. Avanti, lasciami lì. Sì, ciao Gianfranco, buonasera, ben sentito. Sì, ciao a tutti comunque, buonasera a tutti. Stavo andando verso la mia moglie, vai rubra te. Veia. Ciao Gianfranco, buonasera, ben entrato. Sì, ho visto anche l'altra postazione qua. Bello, bello, tragitto, sembra la sala comunicazione di Houston, va bene, bello, bello, mi piace. Ma ci vediamo, poi mi dai un controllo così a vedere con il... guarda quanto spinge molto di più, invece di abbassare la modulazione, questo amplificatore lo aumenta ancora di più. C'è l'elicottero acceso, sentirà la ventola, e beh, quella è una bestiolina. Poi mi dai un controllo, ma ci vediamo, che c'ho l'LA1000 attaccato, a vedere quanto sale, che non l'ho provato col Galaxy. Guarda a vedere, mo dai il telefono. Cazzo fai, da 9.20 a 9.35. E cosa te ne vai, già non è nulla, dai. Non è niente, non è niente. Era te, Rubrofè. Aspetta, sono al computer, mi sono distratto, dimmi. Ho detto che aumenta anche la radio, questo amplificatore, a vedere quant'era il segnale. Aspetta che ti ho attenuato. Ah, perché va fuori linea, va. Però, adesso sei attaccato, giusto? Ehi, adesso sei attaccato. Ti devo attenuare, come ti attenuo, sei sempre sul 9, dai. Sì, guarda, manca bascia. E a te, doppio room. A 30 ci arriva, o a 40. Sì, non arriva lo Smith. Non arriva lo Smith a 40, se no magari lo fai girare. Non lo so, Claudio. Adesso ho provato io a attaccare, ma si vedrà come ti arrivo adesso. 9.30 pieno pieno. KK. E a te, Lubrofè. Aspetta, che devo attenuare. Vai. Guarda attenuato come ti arrivo. Hai fatto? Ma sei attaccato adesso? Cava. Anche tu sul 9, dai. Però sei appena appena Saturino già, leggermente. Non so cosa fare. Con questo apparecchio non posso, ho 3 watt e mezzo, cosa devo scegliere? Non va. Questo aumenta la radio, Massimiliano, ancora più forte. Sì, ma quella c'ha picchi allucinanti, cioè fa da 20 a 35, aumenta un bel gas. E ho abbassato la potenza, c'è una potenza bassa, ore 9. Non le fa niente anche se la metto al massimo, non è che, però preferisco tenerla così, dai. E la ventola molto si sente, Massimiliano. Sì, la si sente, ma comunque la modulazione la copre, capito? Non è problema quello lì. Quando stai modulando la copre la modulazione, la voglia. Sì, però, sì, aumenta parecchio anche la radio. Vabbè. È una canonata l'amplificatore, porca miseria, una canonata veramente. Ci sono voluti anni per capire che lo stato solido è molto meglio della valvola. Gianfra, riprendi, dai, fai girare che stacco, era solo una prova. Sì, rilancio a Gianni, perché sto facendo una cosa di lavoro, che l'hanno chiamato. Riprendi Gianni. Eia, ma si vede, guarda adesso se la radio ha migliorato. Sì, leggermente migliorato, sì, non è più satura. Cavagava, vabbè. Però fai da 15 a 30, anche il tuo sale parecchio. KK, va bene, stiamo così, dai, che siamo più tranquilli. Non si sa mai che l'era faccia stare un contatore. No, è stato solido, non succede niente. No, io ho staccato, mi ero messo a 10 watt. Era giusto per vedere il segnale da Massimiliano, è un bel Massimiliano. Nattino addirittura quasi a 40 gli arrivo, quasi. Proprio un benino mi ha detto a 40, col K. Da 9.20 a quasi 9.40. È un bel, già rulla, va bene. No, sono soddisfatto di questo baracchino, veramente, io l'avevo letto e finalmente è tornato qua, dai, sono soddisfattissimo, fa quello che deve fare, esce bene, mi sa che mi vendo burro di gappa, Massimiliano, così siamo a posto. Ma vedete due carnaggi di chisci che fai qui, vedi, 23 canali. Cosa dove vai tutti che sei tra i 23 canali? Vendite le 2 o 3 e te ne tieni qualche modo diverso. Ah, non prendo. Cioè, da voi la scrivania si raccorcia e sono tutti in fila, che poi va avanti un microfono ognuna. No, ma ci vediamo, non ne comprerò sicuramente più, boh, non lo so, se poi Gianni mi critica, non lo so, mi piacciono bene, ma sono, poi sono belli, mi sono tutti funzionanti, ieri abbiamo fatto le prove, li ho provati tutti, mi c'era Roberto, forse c'era anche Gianni, stavolta c'è bene il Midian 574, il Pony, l'Innovit è favoloso, anche l'Inter che è 3204, il Pace ho provato ieri, escono tutti bene, veramente tutti bene, peccato, il DAC vabbè no, non lo conto neanche perché il DAC è DAC. Se dipendi io ne prendo uno, il DAC. Ui, tu prenoti sempre quello sbagliato. Lascia parti da dove c'è il Galaxy a scendere giù, il DAC e toglilo. Vabbè, quello che ti piace a me. Lo so già, ma no, non lo do quello io. Non lo do, è introvabile e poi è sempre nella lista del migliore in assoluto dei baracchini a livello molto molto alto, tra l'altro anche Marco, quindi no, non lo do, anzi, adesso faccio una cosa, siccome ce li ho tutti accesi, adesso cambio antenna e vado col DAC, così mi dà la differenza, ok? Parità di potenza, è 10 watt. Vabbè, il Galaxy non c'è nulla da dire. Esce bene, è poco di qua. Lo so, ma anche il DAC già esce bene, adesso te lo dimostro che esce bene. Dammi un secondo, vai Robrofè. Ehi, ma Natalino si è spostato o è ancora con noi? Natalino? Non ce l'hanno operato, Dorra. A domicilio? Beh, stavo aspettando il dottore. Andavè. Luca sta passando il decespugliatore alla barba, quindi sarà impegnato ancora. Luca, ci sei? KKK del Rogero, questo è il DAC, sicuramente più bassa la modulazione. Più bassa la modulazione, facciamo scaldare un po'. È migliore quella del gas. Cosa già? È più bella quella del gas, secondo me. Fanno scaldare appena già. Ma perché è più bella quella del gas? Sarà più bassa perché la tengo io bassa. Non ho capito, Michigan a quant'è? È a 2, mettiamolo a 4 Michigan, eccolo qua, così a 4 Michigan, vai. E adesso va meglio. Ma non c'è problema, possiamo metterlo anche a 6 Michigan, così a 6 Michigan, così a 7 Michigan, devo sollevare ancora? No. Stai andando per quasi a strappare. Va bene, no, già va bene, portalo qua. Allora lasciamo così, lasciamo a 4 Michigan, no, lo tengo a 2 perché mi hanno detto che era troppo alta, capito? Questo è tane più 3 Gianni, non è l'MB più 5. Già si sente che tane più 3. Hai visto? E ce l'ho un'oretta neanche acceso, perché l'accendo che mi fa l'occhio, capito? C'ha tutti gli strumenti illuminati. Brefetta! Sì, sottoscrivo anch'io e confermo, col guadagno a 4 va benissimo, dai. Sì, come ti ho detto l'altro giorno che abbiamo fatto quei due passaggi di prova e si sente la differenza, dai, comunque sono ottime tutti e due, dai. E poi ieri, hai visto, abbiamo fatto anche il Pace, tutti li ho provati ieri. Quello che praticamente mi hanno dato punteggio pieno è il DAC, il Pony, senza il Galaxy, il DAC, il Pony, il 574, piaceva molto a Roberto, e l'Inuit, e sto cazzo di Inuit 294 a CPK, ma ha detto che prevale anche sul Galaxy, non ci voglio credere. Provalo a vedere. L'Inuit, ehi.